Eccoci! Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Questo è il finale della partita tra Real Madrid e Milan, una bellissima partita, tante emozioni, 6 gol, 4 del Milan con la doppietta di Esharawi, uno dei migliori sicuramente di Pippo Inzaghi. Milan insomma chiude il 2014 con un risultato che insomma arriva in fondo a un amichevole, ma che dà grandi speranze, grandi convinzioni. L'autostima che andava cercando da questa partita Pippo Inzaghi l'ha avuta. Io credo che abbiamo assolutamente la possibilità con il nuovo anno di imporci come la migliore squadra italiana. Penso che noi abbiamo la possibilità di ritornare con questa rosa ed essere il Milan protagonista in Italia, in Europa e nel mondo. Our target in this season is the Champions League. Now we are in the top of the table. I don't know what can happen in the end of this season. It's clear that it's possible we want to win, but there are some teams better than us in this moment. But the championship in Italy is very strange. But when we start the season, our target was the Champions League. You know I'm going to lose. The gambling's for fools, but that's the way I like it, baby. I don't want to live. Io non so se in Qatar sono più rock come Mancini, adesso fra un paio d'ore c'è Inter Paris Saint Germain, oppure più in vena di Amarcord, come questa mattina il nostro Giovanni Melchiori in redazione, il nostro Pietro Lacorte in regia. Adesso lo chiediamo a Marco Barzaghi direttamente, temo, dal bordo di una piscina, o no, a Doha. Marco? No, inizia a far freschino, mi sono ritirato dai miei alloggi. Ci sono meno di 20 gradi, immagino, scommetto. Sì, più o meno quella la temperatura, comunque meglio che in Italia, anche l'ideale per lavorare. Un po' di nostalgia forse sì, anche qua in Qatar, perché rivedere i vari Ibrahimovic, Thiago Motta, insomma, Verratti, Thiago Silva, insomma, fa un certo effetto. Sì, come fa un certo effetto tornare sulla macchina del tempo a quel 30 dicembre 2014, Milan-Real Madrid 4-2. Per la cronaca, gol di Menez, doppietta di Esharawi e gol di Pazzini, che illuse il Milan di essere salito sul tetto d'Europa, il tetto del mondo, non lo so. Insomma, le parole di Berlusconi le avete sentite, erano di qualche giorno dopo. Sono qui con Federico Casotti, direttore di Gol.com Italia. Ciao Federico. Ciao Giovanni, un saluto a tutti. No, questo per dire che bisogna maneggiare davvero con cura tutto quello che arriverà in questi giorni, a partire dal mercato, ma soprattutto da quello che succede a Doha, in Qatar, tra un paio di ore, dove Mancini lucida l'argenteria, la mostra al Paris Saint-Germain, la mostra a Tohir, e poi vediamo che cosa ne esce. Avremo domani tempo per parlarne, perché domani siamo ancora in diretta, sempre dalle 14 alle 15.30 come oggi. 800 24 00 24, chiamate, prenotatevi, abbiamo tanta carne al fuoco oggi, tante cose di cui parlare, oppure 349 238 6666 per i vostri sms e i vostri WhatsApp. Marco Barzaghi, dai, dacci le ultime come se fosse una roba seria, le ultime da Doha. Ma intanto di argenteria diciamo che è rimasto il servizio buono, l'unico che è rimasto, perché tutti i sudamericani che sono arrivati ieri sera non andranno neanche in panchina, quindi Icardi, Guarín, Palacio, Miranda, Felipe Melo, Juan Jesus, Dodò non faranno neanche parte della panchina, quindi ci sarà spazio per i titolari che Mancini ha provato oggi. Quindi vi do anche quella che dovrebbe essere la formazione con Handanovic, Montoya e Santon, terzini, Ranocchia ed Ambrosio, coppia centrale, Brozovic e Kondogbia davanti alla difesa, poi Perisic, Ljajic e Biaviani alle spalle di Jovetic. Questo è quello che riuscirà a mettere in campo Mancini, e poi penso che nella ripresa entreranno tanti giovani. Sì, ovviamente l'Inter è lì per questione di vil pecunia, perché non c'è nessun senso compiuto di preparazione, come dimostra anche la scelta un po' di tutte le altre italiane, perché l'Inter è l'unica quest'anno ad essere viaggiata verso i paesi caldi, però insomma prende tanti soldi per questa amichevole ed è comprensibile. Hai visto Tohir? Sì, questa mattina ha fatto un discorso anche alla squadra, è arrivato perché proprio vuole anche iniziare a intavolare dei discorsi col Paris Saint-Germain, vedremo se porteranno degli sviluppi, e poi chiaramente ha ricordato che l'obiettivo è tornare in Champions League, una cosa che l'Inter non può permettersi di fallire, al di là della classifica che adesso vede ancora primi nerazzurri, non bisogna assolutamente fallire il ritorno in Champions League, sì, per le solite questioni di cui sopra, cioè quelle di soldi, di bilancio e di tutto il resto. E sì, venendo anche all'aspetto del mercato, perché si è parlato ieri anche in conferenza stampa, questa conferenza stampa congiunta, che sensazioni si hanno al di là delle battute di Mancini a Blan, soprattutto sull'aspetto e sull'ipotesi Lavezzi, che è quella che unisce un po' tutto, no? Sì, c'è stato quel teatrino a favore di telecamera, no? Parli tu, parliamo, esatto, dopo, poi vediamo. Quello che si capisce è che Blanc non vede l'ora di mandarlo via. E che per ecco, lui immagino la soddisfazione e la motivazione di Lavezzi dopo averla vista. Esatto, però comunque fonti molto vicine al presidente del Paris Saint-Germain mi dicono che molto dipenderà anche da quello che sarà il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain per quanto riguarda il futuro di Lavezzi. Se dovesse essere Mourinho, come si vocifera, Mourinho aveva già praticamente quasi concluso un approdo di Lavezzi al Chelsea, quindi potrebbe anche cambiare tutti gli scenari. Penso che comunque difficilmente, come hanno scritto un po' anche tutti, possa essere un affare di gennaio, ma se ne riparlerà a giugno, quando vedremo se Lavezzi andrà a scadenza o se prima il nuovo allenatore che succederà a Blanc gli farà proporre un rinnovo. Sì, perché Blanc è un po' come tanti altri, poi avremo modo di parlarne, perché abbiamo un allenatore con cui affrontare il tema proprio del valzer delle panchine. È un po', forse meno, ma è un po' come Benitez, come Van Gaal, è un po' di quelli che sono lì ancora al momento, quasi per gentile concessione. Poi si vedrà. Sì, poi dagli sceicchi, assolutamente sì, poi si vedrà. Diciamo mal sopportati, anche se comunque stanno avendo, almeno per Blan, i suoi risultati. Poi vedremo come andrà la campagna di Champions League, che penso che sia l'unica cosa che adesso interessi agli sceicchi, ma difficilmente potrà arrivare fino alla fine a vincere un trofeo importante. Una curiosità, Marco, ma Ibrahimovic come sta, come hai visto? Ho visto che è titolare anche oggi, insomma, lui sicuramente di riposo non ne fa. Lui non ne fa, ma anche lui è uno di quelli che dovrebbero cambiare maglia a fine stagione, lo si dice da due stagioni, però mi sa che adesso è arrivato proprio il momento giusto. A fine stagione penso che anche Ibrahimovic prenderà un'altra strada, sempre anche lì però bisogna vedere chi ci sarà in panchina, magari lo vorrà ancora a Parigi, ma comunque le voci sono che lui si sia veramente stufato di stare in Francia. Sì, come si sono stufati quelli dell'Inter di parlare di quello che è successo dopo Inter-Lazio. Adesso vi faccio sentire un breve estratto di Jovetic, proprio a Marco Barzaghi, Sport Mediaset. Ho letto mille cose, sinceramente sono rimasto sorpreso, perché abbiamo perso partita, ovviamente che quando perdi nessuno è contento, però non è successo nulla. E poi io, se mi sentivo in colpa o se era successo qualcosa, io avrei detto qualcosa. Secondo me non è successo nulla, quello lo può dire anche il mister, l'importante è che noi dentro la squadra sappiamo che non è successo nulla e siamo tranquilli. Oh, la frase "non è successo nulla" non era nemmeno quotata, Marco? Sì, comunque poi anche Mancini ha parlato, anche lui ha detto sono cose normali che succedono con la tensione di una partita, qualcosina è successo, però probabilmente non come è stato scritto o riportato, anche perché sennò ci sarebbe stato un Osvaldo bis e non credo che ci sia in questa situazione. Sì, anche se il tema, se l'Inter possa soffrire un po' di pressione ora che insomma è al primo posto, diventa sempre più difficile dire, come ha ripetuto ancora Mancini, che l'obiettivo è la Champions League, qualche pressione in più probabilmente c'è, e in quello andrà verificata qual è la tenuta. Ah, sicuramente la Juventus, soprattutto il fiato sul collo dell'Inter, penso che pressione di quanto ci fosse prima. L'Inter ha fatto, penso, un inizio di campionato che nessuno si aspettasse straordinario, però adesso arriva il difficile già con Empoli, Sassuolo, ma poi tutto il girone di ritorno con gli scontri diretti in trasferta. Sì, in trasferta. Lasciamo Marco alla sua trasferta. Grazie Marco Barzaghi. Ciao Marco. 800 24 00 24, scrive un amico: cosa servono queste amichevoli? Lorenzo da Vicenza. Non servono nulla, cioè servono solo perché l'Inter prende un paio di milioni da chi le organizza. È come quando a luglio, una volta a luglio, si facevano le amichevoli con le rappresentative della montagna, e adesso si gioca già con Real Madrid dopo una settimana di preparazione. È cambiato completamente il modo proprio di prepararsi e di gestire la condizione fisica. Poi che questo abbia dei risultati in prospettiva da qua a maggio per la condizione dell'Inter, questo è tutto da verificare, però se è l'unica che è partita, un motivo ci sarà. Poi c'è chi dice: invece di Lavezzi servirebbe un centrocampista, un regista come Valdifiori, che tra l'altro potrebbe essere sul mercato perché Napoli non gioca. Potrebbe essere un'idea. Sì, potrebbe essere un'idea, anche se probabilmente non è il tipo di profilo che Mancini ha in mente. È più un profilo da Sarri, anche se magari Sarri non lo ha valorizzato in questi primi mesi come ci si aspettava. Sì, 800 24 00 24. Adesso ci fermiamo perché fra un po' c'è il traffico. Oggi è il giorno della 500ª partita di Messi con la maglia del Barcellona, e allora noi ve la lanciamo lì. Togliamo Messi, Neymar, Suarez e Cristiano Ronaldo, altrimenti è troppo facile. Ieri vi abbiamo chiesto il podio degli allenatori. Oggi vi chiediamo, tolti questi quattro, quindi tolti Messi, Neymar, Suarez e Cristiano Ronaldo, se ci fate il podio degli altri, degli umani, quelli bravi davvero, ma che non sono questi quattro, quindi non sono dei fenomeni. Fate voi, sbizzarritevi. Io non so se tu hai delle preferenze, Federico. Ma io nutro ancora un debole per Zlatan Ibrahimovic, nonostante i 34 anni, quindi continuerei a metterlo tra i tre. Poi sicuramente Pogba ha un bel potenziale, e poi punterei su Alaba, anche Thomas Müller, diciamo che uno del Bayern ci deve stare. Alaba lo trovo un universale che rappresenta al meglio come è cambiato il calcio di oggi. Quindi Ibrahimovic, Pogba e Müller, dateci il vostro podio dei più forti, a parte gli extraterrestri, quindi a parte i tre del Barcellona e Cristiano Ronaldo. Traffico. And for Lavezzi, maybe we talk after the press conference. I'm ready. Tutti convocati. Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Vi presenta convocati. Allora, Lewandowski, Bacca, Griezmann, podio degli umani, a parte gli extraterrestri. 349 238 6666, via WhatsApp, via SMS, 800 24 00 24, così facciamo questo giochino insieme se volete telefonare. Poi Iniesta, Lewandowski, Izco, Paolo da Prato, se vi firmate io vi cito. Poi c'è un milanista, Marco d'Alessandria, che mette sul suo podio, non so a che posto, Gonzalo Higuain. Poi Mario che dice Hazard, Di Maria e il Kun Aguero. Stavo dicendo, nessuno ha ancora citato Agüero, neanche io in realtà. Però diciamo che questo dualismo Cristiano Ronaldo-Messi ha fatto sì che ci sia poi davvero alle spalle una grande fluidità. Se non ci fossero stati loro due, probabilmente avremmo avuto un albo d'oro del pallone d'oro come quello di fine anni 80, inizio anni 90, uno che più o meno tutti che si scambiavano. Sì, che è anche un po' una bella alternanza. Questo pallone d'oro, Iniesta, Buffon, Lewandowski, Paolo da Lumezzane, Lewandowski, Pastore, Aguero, Nicola non so da dove, 800 24 00 24, Giulio da Vicenza. Giulio. Ciao. Ciao. Dunque, io parlavo di Lewandowski perché mi pare un grande centravanti della formula antica, no? Cioè quello che da solo si tira addosso una difesa, riesce a fare dei gol, è un giocatore straordinario. E poi, a parte il pallone d'oro, volevo dire la tristezza di questo Milan, che insomma io mi ricordo altri Milan e con giocatori come Montolivo, Abate, Desciglio. Come possono pensare di puntare all'Europa League? Questa è la mia domanda. Mi sembra, Giulio, che l'Europa League sia l'obiettivo minimo per il Milan, anche con questa rosa qui, o no? Cioè, anche con la Coppa Italia. Adesso, senza rifare gli errori dell'anno scorso, e lo abbiamo sentito, Berlusconi era il 3 gennaio, non cambierei la rosa con nessuno, questa è la squadra più forte d'Italia, faremo un grande 2015, anche senza rifare quegli errori lì, pensare che il Milan possa arrivare quinto, quarto, quinto, sesto, credo. Anche perché teniamo conto che il Milan è con 4 partite, di cui una col Carpi, 2 contro una tra Spezia e Alessandria e una eventuale, una finalissima contro una big, però almeno una delle 4 dovrebbe essere di livello, potrebbe vincere la Coppa Italia e arrivare diretto in Europa League, senza neanche i playoff, tra l'altro. Deve vincerla. Deve vincerla, però è evidente insomma, che oggi il Milan è questo, quindi è inutile continuare a inseguire i vecchi nomi. C'è chi scrive Lewandowski, Barzagli, Iniesta, Davide da Forlì, oppure riguardatevi l'ultimo classico, Iniesta è il più forte di tutti, poi Mascherano e Ibra, questo è Giorgio. Tevez, Pogba, Lewandowski, Mustafa da Milano. Sbizzarritevi, 800 24 00 24, 349 238 6666, via sms e via whatsapp. Parlate del Milan e ora parliamo di Milan. Giocatore, un contropiedista di questo genere qui a 19 anni eccetera, non ce l'abbiamo mai avuto. Io ho insistito, sono riuscito a prenderla, è stata, non voglio prendere i meriti, ma insomma sono stato io a spingere su questo qui, perché quando lo vedevo giocare al Padova mi sembrava un buonissimo giocatore che potesse crescere, e siamo riusciti ad arrivare per primo su questo giocatore qui. Come le caratteristiche, Shaarawy è un esterno, ma lo proviamo a inventare un centrocampista, un interno, perché caratteristiche potrebbe averlo, bisogna vedere il suo adattamento e la sua voglia. Ho parlato anche con un ragazzo, mi ha dato la piena disponibilità, perciò vedremo se riusciamo a farlo. Io lo vedo da sempre mediano sinistro. Una grande emozione, sono veramente molto, molto contento e molto emozionato, ringrazio il presidente e tutto Monaco per questa opportunità, ma sicuramente è una grande società che io ho anche seguito. La storia è quella di Shaarawy, che è la stangata di Capodanno per il Milan. Monica Colombo, Corriere della Sera, ciao Monica. Ciao, buongiorno a tutti. L'unico uomo capace di rovinare le ferie in Brasile di Galliani, credo. Sì, diciamo che non è in questo momento degli umori migliori, insomma. Del resto, avendo già programmato di mettere a bilancio i 14 milioni del riscatto di Shaarawy, ora ritrovarsi con l'affare sfumato e tutta una trattativa da rifare da capo con un eventuale nuovo club, diciamo che non ha contribuito a migliorargli l'umore. Sì, abbastanza prevedibile, secondo me da almeno un mesetto si era capito che il Monaco aveva poca intenzione di riscattare un giocatore. Del resto, adesso senza Shaarawy sicuramente si riprenderà, però uno che ti segna 3 gol in mezza stagione, pagarlo in tutto 16-17 milioni di euro è tanta roba, come si dice oggi. Sì, Monica, volevo chiederti, ma non c'è per caso margine per un ripescaggio di Shaarawy sulla falsa riga di quello che avvenne ad esempio per Niang? Pensavo per lo sconto. No, perché in realtà Niang è stato dato per 2 anni come irrecuperabile dopo Montpellier soprattutto, poi in realtà è vero che ha fatto una buona mezza stagione contro il Genoa l'anno scorso, però è stato in qualche modo recuperato. Secondo te c'è margine perché una cosa del genere avvenga anche con Shaarawy, o i bonus sono finiti? No, io credo che in questo momento la possibilità non sia proprio contemplata, anche perché sulla fascia sinistra in questo momento il titolare inamovibile, visto che anche l'uomo attorno a cui grava tutto il gioco del Milan, è Bonaventura. Io credo che il Milan intenda monetizzare da una sua cessione, di certo non consentirà a quella che poteva essere la strategia del Monaco di trovare una squadra a cui dare il giocatore in prestito, il prestito vincolato alle presenze, o la situazione la gestisce il Milan, o addirittura in questo momento appunto minaccia di lasciarlo sino a fine stagione comunque al Monaco, in maniera tale che gli corrisponda l'ingaggio, ben sapendo che sarebbero dei mesi persi, visto che non è intenzione dei francesi di utilizzarlo. Anche se si fa fatica a pensare che ci sia la fila adesso di pretendenti, ieri viene fatto circolare, ci sono 6 club, 3 italiani, 3 che vengono dal resto d'Europa, l'idea che si possa scatenare un'asta su El Shaarawy mi sembra difficile da far passare. C'è un amico, Monica, che scrive: Fabio, sostengo da mesi El Shaarawy è un centravanti e chi lo capirà per primo farà la propria e la sua fortuna. Berlusconi e Mihajlović ce l'abbiamo sentito, ma soprattutto Berlusconi voleva fare un interno di centrocampo, magari Shaarawy trasloca in un altro ruolo per cercare fortuna. Ma io non credo che abbia le qualità per giocare centravanti, perché è proprio un giocatore da contropiede che fa della velocità negli spazi la sua arma migliore. Penso che su di lui tutte le valutazioni da parte di Mihajlović e della società sono state fatte l'estate scorsa, e del resto io credo che uno dei motivi che hanno indotto Shaarawy a fare le valigie destinazione Principato è stato quando Mihajlović gli ha detto: davanti siamo in tanti, se vuoi ti trovo posto come mezzala sinistra, sì, centrocampo, che non è senza esattamente giri, insomma, di parole, il suo ruolo preferito. Ecco. In mezzo ci sarebbe anche la questione della nazionale dell'europeo. Federico, credo che a questo punto per Shaarawy sia lontano, ed è un peccato perché tra l'altro Conte l'aveva rimesso dentro il circolo. No, sì. Quando penso che all'europeo ci saremmo potuti presentare con un tridente con Shaarawy, Balotelli e Rossi, ma parlo degli Shaarawy, Balotelli e Rossi di due o tre anni fa. E alla fine è una vera tragedia per la nazionale, da questo, una tragedia sportiva ovviamente, quella di non poter contare nemmeno su un giocatore che si pensava potesse rigenerarsi cambiando aria. Evidentemente non è così. No, in effetti Shaarawy con me si arrabbiò un titolo che accompagnò, insomma, il suo addio al Milan, quando salutando dei tifosi fuori da Milanello disse: vado dove mi vogliono veramente. Ora nessuno mette in dubbio il valore di Shaarawy, però purtroppo per lui le cose non sono andate benissimo. Io credo che magari lo potrà salvare il fatto che il suo procuratore, che poi anche lo stesso di Giuseppe Rossi, ovvero Federico Pastorello, visto che tesserà, come dire, le fila di più attaccanti, magari si prodigherà, insomma, per trovare una destinazione. Io credo che in ogni caso non sarà semplice per il Milan ottenere quei 14 milioni di riscatto, che in questo momento sì, paiono essere la condicio sine qua non per intavolare una trattativa. E che tra parentesi erano forse l'unica cessione del Milan quest'estate, perché poi il tema del Milan, della campagna acquisti, è vero che a un certo punto sì, il Milan ha smesso di comprare, è anche vero che praticamente non è riuscito a vendere, tranne la promessa di pagamento di El Shaarawy. Sì, e poi tra l'altro questo mancato incasso che era già stato preventivato, insomma, in qualche modo penso che abbia anche delle conseguenze, Monica, sul mercato del Milan già a gennaio. L'ipotesi Luis Adriano nuovamente in Russia è un qualcosa di logico, di sostenibile, di realmente ipotizzabile? Ma io a questa ipotesi non credo, perché comunque, anche se non è stato considerato titolare inamovibile in questi mesi, è un giocatore su cui Mihajlović fa affidamento, è un giocatore dal rendimento sicuro, non si può ogni volta ripartire da zero. Io credo che ci sono alcuni giocatori, visto che davanti comunque sono in tanti, perché sono in 9, ci saranno dei giocatori che usciranno. Su tutti è Cerci, che è stato ammazzato tra virgolette anche da una delle ultime battute del presidente Berlusconi, una delle uscite del presidente Berlusconi, che quando parla, ecco, fa, insomma, lascia il segno. Esatto, e quindi credo che lì, pochi giorni prima di Natale, abbia messo un po', come dire, la pietra tombale sull'avventura di Cerci, che verrà ceduto in prestito per questi 6 mesi a un altro club, visto che il Milan dall'Atletico Madrid l'aveva preso in prestito per 18 mesi. Si porta dietro uno stipendio prossimo. Non male, Cerci, perché in quell'intreccio lì, poi dopo aver ereditato anche il trattamento economico di Torres, se non ricordo male. Grazie Monica. A voi, buon pomeriggio. Ciao. Grazie a Monica. Ciao, Colombo. Buona, non ci sentiamo. 800 24 00 24, c'è chi dice perché non fare uno scambio con Candreva della Lazio. Luca, difficile fare scambi con Lotito, soprattutto perché Candreva è un giocatore che ha mercato, soprattutto se partisse Felipe Anderson. Direi proprio di sì. Per quanto Candreva potrebbe essere un giocatore che da un cambio d'aria, da un cambio di squadra, anche a metà stagione, potrebbe trarre giovamento, perché il Candreva che si è visto in questi primi mesi del 2015-2016 non è sicuramente all'altezza di quello della scorsa stagione. Poi Paolo, a Torino c'è posto, Allegri lo conosce bene, dai Galliani facci un altro regalo, tifoso della Juve. Poi c'è chi dice il Shaarawy è semplicemente uno che si è montato la testa, tutto qui, non lo so. 800 24 00 24, facciamo Enrico dalla provincia di Firenze, poi andiamo avanti a leggere il podio degli umani, quindi tolti i tre del Barcellona e Cristiano Ronaldo, stanno arrivando delle segnalazioni interessanti anche via WhatsApp. Enrico dalla provincia di Firenze, Enrico. Sì, buonasera. Buonasera. Allora, io pensavo a Vidal come pallone d'oro, perché se si considera Vidal l'annata, vinto Coppa Italia, campionato, finale di Champions, miglior giocatore. Sì, la finale di Champions non l'ha vinta, però l'ha persa vinta, e non è un dettaglio nella corsa al pallone d'oro. Non è un dettaglio, è vero, però ha vinto la Coppa America e anche il miglior giocatore della Coppa America, cosa che Messi non ha fatto. Sì, Messi ha fatto il triplete, ha fatto il triplete in Europa, che non è poca roba anche quella. Però in Coppa America ha fatto meno di Vidal in Champions League. Sì, ecco. sì, insomma. Meno di Vidal in Champions League non lo so. Basta dare un'occhiata alle statistiche, Enrico, di cosa ha fatto Messi, che ha fatto un 2015 strepitoso anche nella seconda parte, però comunque i finalisti sono quelli, sì. Quindi già hanno fatto fatica a tenere fuori Suarez, che ha segnato più degli altri, forse anche più di Messi, che ha avuto un infortunio. La notazione però dell'ascoltatore è interessante, perché effettivamente Vidal, al di là di tutte le faccende extrasportive, è un giocatore che quest'anno ha avuto un rendimento costante, è vero, cambiando squadra, andando probabilmente a migliorare, anche entrando in una squadra dove gli ingranaggi funzionano alla perfezione. Secondo me ha pagato, ed è questo è stato il suo limite maggiore in campo, l'eccessivo nervosismo che è emerso ad esempio nella finale di Berlino, dove probabilmente la pressione o quant'altro, insomma, non lo ha portato a non rendere. Sì, ha fatto nella partita abbastanza tonici all'inizio, ce li ricordiamo un bene. Po' troppo tonici. 800 24 00 24, siamo qui, allora vi aspettiamo, adesso c'è la borsa. Bene, molto bene. Il Trap apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Nel Far West tutti cercavano qualcosa. C'era chi cercava l'oro. L'ho trovato! Quello è il dente d'oro di Nick! E chi cercava nuove frontiere. Oggi per tutti i risparmiatori in cerca di certezze ci sono i buoni fruttiferi postali. Sono garantiti dallo Stato italiano ed emessi da Cassa Depositi e Prestiti. Buoni fruttiferi postali. Buoni al 100%. Sempre. Vieni all'ufficio postale. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali dei buoni fruttiferi postali, consulta i fogli informativi regolamenti del prestito disponibili presso gli uffici postali su poste.it e risparmiopostale.it. I buoni fruttiferi postali sono collocati da Poste Italiane S.p.A., patrimonio Banco Posta. Anche per quest'anno ci siamo nutriti del migliore design made in Italy. Abbiamo immaginato un mondo solidale e sostenibile, raccontato le eccellenze alimentari italiane. Il gruppo Comma, comunicazione e media, ringrazia i suoi clienti e augura a tutti un felice anno nuovo. Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Sì, sei un'azienda, stai cercando agenti. Mi vai sul sito agente.it. Rappresentanti oppure venditori, mi sembra sul sito agente.it. Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Anga Milano. Tutti convocati. Il podio degli umani tolti Messi, Neymar, Suarez e Cristiano Ronaldo è più interessante del Pallone d'Oro. Allora, vado con qualche citazione in ordine sparso: Lukaku, Alexis Sanchez e De Bruyne, Lorenzo, Lewandowski, Bale, Robben, Davide, e poi c'è chi dice Pallone d'Oro lo vince Messi ma lo meriterebbe Iniesta. Iniesta che credo sia fuori proprio dalla terna dei finalisti, e quindi diciamo non c'è speranza. Poi Iniesta, Lewandowski, Müller, Lorenzo da Vicenza, poi vabbè, c'è qualche nostalgico, Crespo, Del Piero, Giggs, Hazard, Sturridge e Iniesta. Andrea da Viareggio: Pogba, Di Maria, Pjanic, Pierluigi da Como, Di Maria, Lewandowski e Thiago Silva, Massimo. Insomma, noi vi aspettiamo, potete andare avanti 349-238-6666 per scrivere i vostri WhatsApp, i vostri SMS, oppure vi aspettiamo all'800-24-0024. Il podio ce lo facciamo dare direttamente da Walter Novellino. Mister, ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Ce lo dai, il podio, tolti però gli extraterrestri, quindi togliamo Messi, togliamo Neymar, togliamo Suarez e Cristiano Ronaldo, sennò è troppo facile. Allora, diamo a Buffon, dai. Buffon. Perché secondo me se lo meritava, è giusto che viene per tutta la carriera, per tutto quello che ha fatto, per quello che sta facendo, non dimentichiamolo, io penso Buffon. Sì, è anche una delle chiavi, credo, oggi del ritorno della Juventus. Lui insieme ad altri anziani dello spogliatoio. Al ritorno del 3-5-2. Il ritorno del 3-5-2. Ma tu ci credi, ad esempio, che siano proprio stati Buffon, Barzagli, insomma, i giocatori più di peso dello spogliatoio, ad esempio, a fare due chiacchiere con Allegri e del mister? Forse sarebbe meglio tornare indietro, provare a darci qualche certezza in più anche partendo dal modulo? Ah, io credo che il dialogo c'è. Insomma, aiutare il proprio allenatore. Poi non è che l'allenatore possa cambiare idea, però una squadra che ha ottenuto quello che ha ottenuto col massimo che hanno fatto, con 3-5-2, l'allenatore non è Allegri, un allenatore molto bravo intelligente. Anzi, io lo ritengo anche abbastanza sottovalutato, e lo dimostra molto, anche quello che ha passato negli ultimi mesi. Mancavano molto i risultati, ha dovuto convivere con le critiche dei nostalgici di Conte, per carità, altro grandissimo allenatore, critiche però forse esagerate. Molto esagerate, ma in Italia c'è e questo esiste, ma è il nostro mondo d'altronde. Però la bravura, noi tecnici sappiamo che lui è bravo, insomma. Sappiamo che aveva un momento di difficoltà, ma no, la squadra, più che altro i giocatori importanti che dovevano ambientarsi in una città e ambientarsi anche al carattere della Juventus. C'è stato e sta ottenendo quello che lui merita, insomma. Mister, il fatto che praticamente negli stessi giorni Ancelotti sia stato annunciato al Bayern Monaco e dall'altra parte invece Mourinho sia stato esonerato dal Chelsea, due allenatori così diversi tra di loro, significa che forse in questo momento un modello di allenatore più improntato magari al dialogo, alla vicinanza con i giocatori, come quello di Ancelotti, sia preferibile, sia più vincente? Un po' meno muscolare? Sì, quello che dicevamo prima, insomma, che l'allenatore non è stupido, l'allenatore deve ascoltare anche il proprio giocatore. Direi Carlo lo conosco molto bene, è una persona, oltretutto si fa voler bene, ma ha carattere, è uno che sa quello che vuole, insomma, è uno che parla chiaro in faccia, non sono quelli che parlano, diciamo tra virgolette, in seconda battuta. Mourinho Eden è un allenatore, ecco, Mourinho forse fa parte più del mio carattere, ecco, è uno impulsivo, però è un diretto, è un leale, non è uno che ti tradisce. E vanno di moda, stanno tornando di moda gli allenatori veri, insomma. Ecco. Sì, oggi Lippi sulla Gazzetta dello Sport dice che il migliore di tutti è Carlo Ancelotti, migliore anche di Guardiola, che pure dopo Sacchi, dice Lippi, è stato il primo vero innovatore, cioè ha portato qualcosa di nuovo nel calcio. Noi ci facciamo riconoscere bene all'estero. Ieri parlavamo con Agostinelli che va in Albania, c'è De Biasi, ce ne sono tanti altri. Da noi c'è qualche straniero di troppo, forse, e non solo in campo, credo anche in panchina. Io non so come la pensi. Sì, direi anche Lippi mettiamo un sacco di bravi, Lippi, ha parlato lui, ho letto anch'io la Gazzetta stamattina, ma direi anche lui è uno che ha vinto e ha straconvinto di quello. È ovvio che ci sono degli allenatori, noi siamo allenatori un po' sottovalutati in questo momento all'estero, ma però si sta riprendendo, perché abbiamo abbiamo una squadra di Coverciano che è importante, abbiamo diciamo degli allenatori a livello tattico, tecnico, tattico molto bravi. Prendiamo Sarri che è uscito fuori da poco, ma Sarri era bravo anche tecnicamente, tatticamente, anche quando allenava la C, insomma. Sì, sì, c'è chi chiede il pallone d'oro italiano, Robby da Vignola, lo diamo a Buffon, l'abbiamo già detto, perché gli daremo il pallone d'oro degli umani, almeno lo darebbe Walter Novellino, quindi gli diamo il pallone d'oro anche fra gli italiani, poi Iniesta, Lewandowski, Azzara, Andrea da Udine, insomma, poi ce ne sono anche altri, Lewandowski è quello che sta facendo, credo, il pieno di citazioni. Tornando agli allenatori, parlavamo prima di Mihajlovic e del Milan, mi curiosisce sapere cosa ne pensa Novellino, ad esempio, della parabola di Garcia, un altro che ricomincia, sta ricominciando in questi giorni, in queste ore, ma probabilmente fosse per Pallotta, sarebbe da qualche altra parte. Io non so quanto convenga poi prolungare questi rapporti, al di là della questione economica, che ovviamente è un peso. A me Garcia, quando è arrivato, ma c'è una strana cosa che succede a Roma: il primo anno gli allenatori a Roma fanno benissimo e poi non incidono più come il primo anno. Devo dire che Garcia ha inciso molto il primo anno, in questo momento forse ha un po' di difficoltà. Secondo me gli manca l'uomo che è Totti, l'uomo tra virgolette, l'uomo di esperienza, l'uomo che sa traghettare tante cose nello spogliatoio. Io credo che gli manchi questo. È ovvio che in questo momento io non cambierei assolutamente Garcia, perché d'altronde ha fatto fino a un mese fa benino, dai. Sì, anche se è difficile lavorare nelle condizioni in cui lavora, e oggettivamente abbiamo letto ieri, adesso decide lui sulla preparazione, doppi allenamenti, lo staff voluto da Pallotta per il momento perde potere decisionale, insomma, così mi pare tutto molto complicato. Sì, le due grosse incognite di inizio stagione, una delle, almeno le due più interessanti, erano quelle legate a Paolo Sousa e Sarri per Fiorentina e Napoli, entrambe però hanno convinto, e soprattutto Sousa potrebbe anche proporsi per una piazza, anche per un possibile miglioramento. E si aspettava i buoni risultati di Sousa e Sarri? Sì, sono d'accordo. Sousa è arrivato con tanto scetticismo, se ci ricordiamo quest'estate. Sì, c'era anche tanto scetticismo sulla Fiorentina. Invece lui ha saputo riprogrammare un attimino tutto, perché Montella ha lasciato un ottimo ricordo. Ha riprogrammato un attimino a livello computer, diciamo, ha riprogrammato un po' tutto sui giocatori e ha dimostrato di essere un bravissimo allenatore. Sarri io lo conosco, l'anno scorso l'ho visto, siamo giocati contro. È un allenatore che ha saputo togliere la mezza punta, ha saputo un attimino, ecco, io parlo in termini molto semplici così la gente mi capisce, che quella è una squadra improntata sul 4-3-3 con giocatori straordinari. Lui cosa ha fatto in più? Ha alzato la linea difensiva di 10 metri. Sì, ha fatto quelle correzioni che Benitez per due anni si era rifiutato di fare. Io credo che Sarri sia la condanna, fra virgolette, la condanna di Benitez, perché poi più o meno la rosa è quella, non è che sia cambiato chissà che cosa, e queste sono le reali potenzialità del Napoli. Napoli che per noi qui continua a essere la favorita per lo scudetto, anche se il ritorno della Juventus ovviamente sta cambiando un po' tutto. Saluto mister Novellino. Ciao mister, buon pomeriggio, buon anno. Ciao, buon pomeriggio e buon anno a tutti. Grazie a Novellino. 800 24 00 24, riusciamo a prendere Giancarlo dalla provincia di Cuneo. Giancarlo. Sì, grazie per la convocazione. Mi riaggancio a quello che ha detto il mister Novellino. Ha detto due cose secondo me molto interessanti. Primo, è l'unico che ha nominato un italiano per il pallone d'oro degli umani, o perlomeno tra i vostri ascoltatori. Poi ha detto che abbiamo i mister migliori d'Italia. Scusi, i migliori mister sì, ce li abbiamo italiani. Mi riaggancio a quello che volevo dire parlando di Esharawi. Io sono un tifoso della Juve, quindi lo guardo da fuori. Però Balotelli l'abbiamo rovinato, intendo il calcio italiano non è riuscito a valorizzarlo. Esharawi pure. Ci ha messo anche del suo, Balotelli. Ho capito, ma magari Rossi per motivi suoi purtroppo ha avuto degli infortuni gravissimi, di questo non posso che rammaricarmi. Però com'è che abbiamo gli allenatori migliori e vanno all'estero, abbiamo i talenti migliori e li roviniamo? Non è che il pesce puzza dalla testa e i problemi sono della società? Io non so se abbiamo i talenti migliori, perché credo che giocatori come Messi, Iniesta, quelli che stiamo citando adesso, in Italia ne abbiamo pochi. mancano proprio un paio di generazioni di potenziali fuori classe, di grandi campioni. Noi siamo ancora legati, poi ne parliamo. Oggi si fa il conto, ci sono Pirlo e De Rossi attualmente fuori dal gruppo dei mondiali e già lì abbiamo Verratti, però poi non abbiamo nient'altro dietro. Sì, il grosso problema del calcio italiano, secondo me, e lo dimostrano anche ad esempio i buoni risultati nel tempo dei vari cicli dell'Under 21, è che talenti in potenza ne riesce a produrre con regolarità. Il problema è che poi nel momento in cui c'è il salto da giovane ad adulto, lì iniziano i problemi. Adesso speriamo che ad esempio anche uno come Berardi venga gestito nella maniera migliore, perché è un ragazzo classe 94 con tutto un avvenire davanti, che potrebbe essere un avvenire molto importante per il calcio italiano. Il punto è che per il calcio, quando finisci il ciclo dell'Under 21, quindi quando hai 23 anni, sei a tutti gli effetti un calciatore adulto, e in Italia a 23 anni sei ancora una bella speranza di solito. È uno dei problemi, non è il problema, ma è uno dei problemi. Anche se, ripeto, uno come Messi, Iniesta, da lanciare a 19 anni, 20 anni, in Italia forse abbiamo sbagliato con Verratti, tanti altri non ne vedo in giro. 800 24 00 24, traffico. Di che cazzo stiamo parlando? Tutti convocati. Tutti convocati. Attenzione a Sagnanza, la parabola per Sterling, in posizione regolare, stop e tiro di Sterling, ci mette le mani Schmeichel. Attenzione a Vardy, prova Vardy sul tocco di Drinkwater, che occasione per Jamie Vardy. Don't let them take the fight out of you. Sometimes it means that nobody wants to win the league. It's very strange, this league. We are starting now to build our team. And I told my players we are the basement, but the others are good villa with a swimming pool, a party and everything. And then it's not easy for us, but we want to fight against everybody. Tra quelli che ci fanno onore c'è ovviamente Ranieri, l'abbiamo sentito, ha detto, e secondo me ha ragione, questa è una Premier strana, non è che Leicester la possa vincere, però non ha padrone. Intanto ieri 0-0 col City, primo posto in classifica con l'Arsenal alla fine del girone d'andata, roba che a scriverla quest'estate, insomma, sarebbe stato preso per pazzo. Paolo Ciarravano, ciao Paolo da Fox. Ciao a tutti. Sarebbe stato preso per pazzo, però oggi è lì. E secondo me una Premier senza padrone significa anche autorizzare qualunque tipo di sogno, che non è il titolo magari, ma già arrivare in zona Europa sarebbe qualcosa di fantascientifico. Sono d'accordissimo. Anche soltanto una qualificazione in Europa League, per questo Leicester sarebbe un'impresa leggendaria. Dobbiamo sempre rapportare poi la stagione che sta facendo quest'anno il Leicester con quella che è la sua storia, con quella che è la storia di questo club, che non ha mai vinto il campionato, non ha mai vinto l'FA Cup, al massimo ha concluso una stagione al secondo posto, ma parliamo di roba di quasi un secolo fa, perché era la stagione 1928-29, e parliamo soprattutto di una squadra che l'anno scorso a Natale era ultima in classifica, quest'anno a Natale era prima. È una storia straordinaria, la stiamo raccontando, la stiamo vivendo, ed è una storia che ieri ci ha detto che può continuare, non sappiamo fino a che punto, fino a quando. Poteva anche vincerla ieri il Leicester. Poteva anche vincerla, poteva perderla, ma poteva anche vincerla, perché comunque le occasioni le ha avute giocando da Leicester, pur avendo secondo me i suoi due giocatori più importanti. Parliamo di Vardy e di Mahrez, ovviamente, per chi non l'avesse seguito la Premier League fin qui, 28 gol in due, che sono in una fase di comprensibile calo, soprattutto fisico, direi. Le occasioni Leicester le ha avute, e devo dire poi alla fine ha provato anche a vincere la partita con quell'ultimo cambio Ranieri, togliendo un centrocampista e aggiungendo un attaccante. Il sintomo che, d'accordo, si gioca con la mentalità della piccola che aspetta e riparte, ma nell'ambito delle proprie possibilità si prova sempre a far male all'avversario, anche se questo avversario ha una somma del costo dei cartellini 10 volte la tua, e parliamo del Manchester City. Ciao ciao Paolo. Al di là ciao. Del fatto che il Leicester probabilmente è destinato a rientrare nei ranghi, perlomeno per la lotta per il titolo, non trovi che questo exploit e dove porterà questo exploit la squadra di Ranieri possa essere di ispirazione in qualche modo per tante altre squadre della Premier League, anche magari con un budget di gran lunga superiore a quello del Leicester, per provarci un po' di più? Perché a volte si ha la sensazione che ci sia una fascia media di squadre di Premier League alla quale tutto sommato faccia comodo stare lì in mezzo senza provare a esporsi, senza provare a rischiare qualche volta. Ma diciamo innanzitutto che la Premier League è un campionato assolutamente anomalo per quella che è secondo me la ripartizione delle ricchezze. Questo nasce dalla differente ripartizione dei diritti televisivi, è ovvio dirlo ma bisogna sempre ricordarlo. Questo maggiore equilibrio fa sì poi che all'interno di questa Lega, all'interno di questo campionato ci sia una lotta feroce anche sul mercato, e questo per esempio fa sì che si spenda tantissimo, a volte molto di più del reale valore dei giocatori, proprio perché ci sono tante squadre che vanno sullo stesso giocatore, mentre per esempio nella Liga Real Madrid e Barcellona scelgono un giocatore e se lo portano a casa, al massimo c'è un altro grande competitor, lì spesso ci sono aste con 3-4 squadre. Questo fa sì che non tutti i giocatori vadano, i giocatori più importanti vadano nelle solite squadre, ma ci sia spesso una spalmatura anche dei talenti. Anche se poi vincono sempre le solite 3-4, adesso al di là della storia del Leicester di quest'anno, l'Arsenal che pure è ricchissima non vince mai, il Liverpool non vince da tempo immemore, ci è andato vicino ma non vince da tempo immemore. L'ultimo grande shock, se non ricordo male, fu il Blackburn di Shearer e di Sutton, ma era comunque una squadra costruita anche con un budget sicuramente superiore alla media. Era un Blackburn molto ricco, esatto. Infatti poi ha fatto il botto poco dopo, peraltro. È vero, a livello di vittorie finali il discorso che fate voi è vero, però è anche vero che c'è appunto una qualità media nella classe media del calcio inglese che forse non c'è in altri campionati. Pensiamo allo Stoke, per esempio, che ha nel suo organico 5 giocatori che hanno vinto in carriera la Champions League, giocatori magari in cerca di rilancio, ma comunque di grande livello, come Arnautovic, come Bojan, come Shaqiri, che fino all'anno scorso era protagonista da noi con l'Inter. Voglio dire, c'è una classe media che sicuramente in alcune situazioni ha dato la sensazione di non osare più di tanto, però è anche vero secondo me quest'anno il Leicester sta raccontando una storia molto particolare, cioè una situazione quasi irripetibile, perché secondo me si è cementato sulla qualità di un gruppo a livello morale. Anche la squadra di Pearson era una squadra che combatteva, che lottava, come abbiamo visto fare ieri all'Leicester. Questa è una squadra che in campo ci mette tutto, e non è retorica, è vero, è una squadra dove tutti stanno dando un po' di più di quello che hanno. È arrivata probabilmente la razionalità tattica italiana di Ranieri a far decantare il tutto, e poi sono esplosi un paio di giocatori che probabilmente fino all'anno scorso si poteva soltanto immaginare che fossero di questo che avessero quelle potenzialità. Per chiudere invece su chi sta vivendo un incubo, il tema è cosa succede allo United con Van Gaal che è arroccato alla sua panchina. Abbiamo fatto l'elenco prima, poi dopo parleremo anche di Benitez e della teoria del complotto intorno al Real Madrid. Van Gaal che evidentemente è un dead man walking sportivamente parlando, però si è allungato la vita, Paolo. Io non so fin quando si possa andare avanti, cosa serve per arrivare al cambio, se davvero lo United abbia bisogno di capire se Mourinho si libera o no a giugno per prendere un traghettatore. Allora, io credo che il miglior traghettatore di Van Gaal sia Van Gaal in questo momento. Anche un po' come Garcia a Roma. Esattamente, è il paragone che stavo per fare, mi hai anticipato. La situazione secondo me è molto simile, perché non conviene forse allo United un cambio adesso. Secondo me sicuramente non converrebbe a Mourinho se dovesse essere lui il subentrante, perché Mourinho è uno che di solito ragiona in un certo modo, si presenta con la lista della spesa, interviene dove ci sono punti deboli nella squadra, si fa accontentare, è la sua migliore dote secondo me come allenatore, e non lo dico con ironia ma lo dico perché sono convinto che nel calcio moderno questa sia una dote in un manager, e poi in un'estate, in poco tempo, assembla il suo istantino. Subentrare adesso per Mourinho potrebbe essere una trappola, e al tempo stesso devo dire che Van Gaal, con la partita che giustamente hai citato tu contro il Chelsea, si è allungato la vita, perché questa è una partita che lo United avrebbe secondo me strameritato di vincere, ci ha dimostrato che con Schweinsteiger forse è un'altra squadra, non sarà una squadra luccicante per qualità offensiva, ma con Schweinsteiger è una squadra più logica, che sa cosa fare col pallone. Insomma, un altro Manchester United è possibile, sì, in questo momento con Van Gaal, però è chiaro che l'obiettivo minimo per lui dovrebbe essere un grande finale di campionato per provare a salvare la panchina, ma sì, sul futuro, cosa che non è lontanissima, perché poi in realtà in una Premier senza padroni può capitare che anche a 5 punti dal quarto posto, ma poi sono tutte lì, tu possa pensare di rientrare. Secondo me anche il Chelsea, che poi è 10 punti dietro il Manchester United, per carità ne ha tante, ma se fa un filotto li riprende. Grazie Paolo. Un saluto a voi. Ciao. Grazie Paolo Ciarravano. 800 24 0024 Fortunato da Belluno. Fortunato. Buongiorno. Buongiorno. Fortunato. Proviamo a recuperarlo. Scrive un amico e chiede se i Ranger Glasgow torneranno in prima serie. Chi può dirlo? Perché comunque già l'anno scorso erano ancora dei problemi finanziari già l'anno scorso, che hanno in qualche modo rallentato la loro ascesa dal Championship fino alla Scottish Premier League. È indubbio che finché i Rangers non rientreranno nel campionato scozzese, anche perché che tra l'altro un appeal pari a meno della Serie B italiana, anche perché peraltro è venuto a mancare negli ultimi anni anche il derby di Edimburgo, che per chi ha letto insomma Trainspotting e compagnia è una partita di culto tanto quanto quella di Glasgow. In questo momento insomma festeggia il Celtic, anche se poi a livello di coppe europee poi la scarsa competitività del campionato presenta il conto inevitabilmente. Piero scrive: il prossimo Neymar è italiano e si chiama La Padula, aspettate, vedete La Padula su cui ha messo gli occhi la Juve, che sia il prossimo Neymar, lo speriamo tutti, ma nutro qualche dubbio. Potrebbe essere il nuovo Paolo Guerrero, nel senso che si parla di lui per un posto nella nazionale peruviana, viste le origini della mamma, ma è comunque la conferma che la Serie B, come anche altri campionati di seconda serie stranieri, per me in particolare la Ligue 2 francese, sono dei territori secondo me mai abbastanza esplorati dal punto di vista del mercato, dove si trovano talenti puri, talenti grezzi che aspettano solo l'occasione buona per poter emergere, e la Padula è uno di questi. Insomma, l'anno scorso era in Lega Pro col Teramo, una ascesa non così rapida, perché comunque non è di primissimo pelo, chissà che l'anno prossimo non possa avere una chance, non possa avere una chance in Serie A. Quando avevo 10 anni mi ricordo che criticavano Baresi, il più grande difensore di sempre, però giocava. Questo è un altro amico che scrive via WhatsApp 349-238-6666 800-24-0024. Adesso c'è il GR delle 15, abbiamo recuperato Fortunato da Belluno, con cui ripartiamo, perché adesso c'è il GR e torniamo subito. Era stato convocato per Luigi Pardo, ma non si è presentato. Tutti convocati. Secondo me, essere buoni significa non arrabbiarsi con nessuno e picchiare nessuno. Come sarà il 2016? Come si immaginano i bambini la vita nel futuro? Perché si dice buon anno? Lo scopriremo a Terra in Vista, il 2016 spiegato a mio figlio. Sono Federico Taddia e vi aspetto, insieme al filosofo Telmo Pievani, giovedì 31 dicembre alle 21 e venerdì 1 gennaio alle 9, con racconti, favole, ospiti e tante curiosità per grandi e piccini. Radio 24, feste in vista. Tutti convocati. Intanto Evra, uno di quelli che pesa nello spogliatoio della Juventus, dopo la partita col Sassuolo ci siamo parlati, insieme abbiamo superato un blocco psicologico, il peggior avversario per la Juve è la Juventus stessa, però insomma pare di capire, crede nella possibilità dello scudetto. 800-24-0024, ci crede anche Camillo, che scrive per inserire Marchisio sul podio del pallone d'oro. E poi insomma ve ne diamo anche altri. Fortunato da Belluno, Fortunato. Buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno a lei. Allora, volevo semplicemente dire qualcosa sul Milan. Sì. Anche se sto cambiando, mi rendo conto. Completamente. No, puoi dire quello che vuoi, a patto che ti fermi e parli nel telefono, perché altrimenti noi facciamo davvero fatica. Sì. Prego, no, prego Fortunato. Adesso mi fermo giusto, sì, un attimo, poi così insomma viene tutto più semplice. Prego. Sì, sì, no, ma non hai tutti i torti. Allora, stavo dicendo, ho visto che non si fa altro che dire che il Milan ha speso tanto, poi non mi pare che abbia speso più degli altri in ogni caso, no? Mi segue? No, non ha speso più degli altri. La Juve ha speso di più, l'Inter virtualmente ha speso tanto, anche l'Inter. Perfetto, perfetto. Prego. Però tra la prima e il Milan mi pare che non ci siamo neanche 10 punti. Ce ne sono 8. 8, quindi anche meno. Quindi siamo più o meno, sono 3 partite forse? Sì. Quindi a questo punto allora o il Milan sta facendo bene con tutti i vari distinguo, oppure gli altri hanno sbagliato completamente, che poi è la stessa cosa mi pare. Beh, non sono pochi però, 8 punti, tra l'altro in una classifica in cui il Milan, e questo secondo me è il grande problema, li ha davanti tutti, perché ha davanti l'Inter, il Napoli, la Fiorentina, la Roma, ha davanti la Juventus, è vero. E quindi non deve semplicemente aspettare che una di queste entri in crisi. No, ma anche senza che loro entrino in crisi, il Milan non sta andando bene, per noi milanisti che siamo abituati al meglio e al buono. Certamente non ci fa piacere quello che sta succedendo, però sto semplicemente dicendo, in un campionato abbastanza anomalo come quello di quest'anno, io non mi meraviglierei poi se noi ci classifichiamo a fine anno intorno al quarto posto. Beh, insomma, credo che poi ci risentiremo pure. No, ci risentiamo senza problemi, grazie Fortunato. Credo che il quarto posto non soddisferebbe le aspettative di Silvio Berlusconi. Beh, a maggior ragione perché che come tutti gli altri chiede il terzo per entrare in Champions League. Poi a maggior ragione, essendo un campionato anomalo, proprio perché anomalo, si presuppone che le gerarchie di partenza, che non vedevano certo il Milan in prima fila, potessero essere in qualche modo sconvolte, cosa che invece non è successa. È valsa per la Fiorentina, per certi versi è valso per il Napoli, per il Milan invece alla fine la situazione non è diversa da quella di 12 mesi fa. Però ad esempio il tema di si critica una squadra ma poi leggi la classifica e ha ancora aperte tutte le possibilità, a maggior ragione vale per la Roma che ieri ha ritrovato i tifosi della curva. Poi sapete come la pensiamo. Calcio e festa, è bello vedere lo stadio pieno, sinceramente mi è capitato ultimamente di venire allo stadio e vedere veramente poca gente e di non vedere le curve. Uno stadio olimpico così non si vedeva non so da quanto tempo. La forza in più di questa città, di questa squadra, è sempre stato il pubblico, e spero che nel girone, nelle partite che verranno della Roma, si possa vedere uno stadio pieno che possa aiutare la squadra. Perché è pieno di vita. È pieno di vita, è pieno di vita. La società e i tifosi devono cercare comunque di adesso trovare un accordo, perché comunque è una situazione abbastanza brutta per chi va in campo, che gioca, quando gioca qua a Roma noi eravamo abituati, mi ricordo, i quarti di finale in Coppa, c'eravamo allo stadio 80.000 persone, arrivare a giocare a Roma e non avere, essercene 10.000 forse, come se fosse vuoto. Della nostra vita precedente, e si parla di gratitudini confronto ai tifosi, di quello che ci hanno dato, alla società, al senso di appartenenza a queste colore, ma è a queste colore perché siamo qua a Roma. Tutte le piazze sono difficili, non è soltanto Roma. È importante è dare valore e essere coerente con quello che si dice. Allora, lasciamo stare la questione ultra, ne abbiamo parlato ampiamente ieri, e comunque se volete ritornarci siamo qui. Roberto Renga, ciao Roberto. Buon pomeriggio. Intanto ieri sera abbiamo scoperto che a Roma si può ancora andare allo Stadio Olimpico, fare anche il tifo, le coreografie, anche se ci sono le barriere in mezzo, cosa sì, che pareva impossibile. È vero, ci sono le barriere in mezzo ed è stato possibile, però ci sono state anche le conseguenze. Io ho appena letto un comunicato della polizia molto allarmato, perché pare che non abbiano rispettato i posti, che ci siano stati petardi, perché pare che ci siano stati cori durissimi nei confronti delle autorità. Sì, nulla di nuovo, Roberto. Non stai raccontando niente di nuovo. Sotto la luce del sole niente di nuovo, anzi di ieri sera delle stelle, tre d'aspo subito. Ma quello che succede a Roma non riguarda soltanto la Roma, riguarda anche la Lazio, cioè c'è il distacco totale da parte delle tifoserie, non soltanto quelle organizzate, quelle delle curve, ma anche quelle della Tevere. Cioè le tifoserie di Roma e Lazio non vanno più allo stadio perché non c'è più identità nei confronti della squadra, non riscontrano più identità nella squadra. Ho sentito, se non sbaglio, che ne ha parlato Candela non si ritrovano nelle società, non si ritrovano più nella Roma e nella Lazio. Sì. Continuano a parlarne, ci sentiranno adesso in questo momento per radio, ma non vanno più allo stadio. A prescindere dal fatto che poi il risultato tecnico può anche essere deludente, lo è certamente per la Lazio in questo momento, lo è anche per la Roma per alcune cose viste in campo in questi primi mesi, poi credo che la Roma sia a 4 punti dall'Inter, correggetemi se sbaglio, 4 punti dall'Inter significa che la Roma è in corsa per tutto, è in corsa per lo scudetto, è in corsa per qualsiasi traguardo, nulla l'è precluso in questo campionato, evidentemente c'è qualcosa che va al di fuori e mi pare di aver capito, al di là della serata di ieri che ha riportato i tifosi in Curva Sud, il tutto ampiamente sottolineato anche con qualche eccesso secondo me, all'orizzonte mi pare, Roberto, non si veda un cambio di ambiente a Roma, Roma-Roma e Roma-Lazio. No, non si vede perché per quanto riguarda la Lazio in questo momento c'è immobilismo assoluto e non c'è da parte di Lotito l'intenzione né di investire, cioè di rovinare un po' il bilancio che come sappiamo è la cosa che va meglio nella Lazio, né da parte della Roma di cambiare atteggiamento, cioè di dare una squadra, la stessa squadra più o meno tutti gli anni. C'è l'esempio della Juventus, no? La famosa difesa juventina, poi intorno, davanti cambi qualcuno, cerchi di migliorare questa squadra, non viene seguito qua. E invece qui, per esempio, a Roma e Lazio, la gente adorerebbe vedere i giocatori di Roma e Lazio, adorerebbe vedere gli stessi, senza fare una distinzione di qualità. Per esempio, uno dei giocatori più ammirati nella storia della Roma si chiama Annoni, che non era un grande giocatore. È anche un po' sicuro. Provinciale però, Roberto. Sì, certo, è vero, i tifosi della Juventus hanno visto partire Pirlo, Tevez, Llorente, Vidal smontare un pezzo di quella squadra e io credo che in maniera molto, molto matura abbiano capito che era perché serviva a partire con qualcosa di diverso. Bravo, bravissima, hai ragione, però venivano da 4 anni di successi e dal fatto di chiamarsi Juventus, di aver sempre vinto da quando sono nati. E comunque dietro c'erano Buffon, Barzagli, Chiellini, Bonucci, Marchisio, cioè la base, Lichtsteiner, Evra, la base era quella. Io farei così, io lascerei una base almeno, ma questo è quello che farebbero probabilmente tutti i tifosi di Roma e Lazio che non ci si ritrovano più. È difficile capire la formazione della Roma o della Lazio, quali sono le formazioni, mica riusciamo a capirlo. Ormai è diventato un gioco, chi giocherà? Boh, non lo sappiamo. Ciao Roberto, da fuori, da Milano, da un punto di visione esterno, l'impressione è che soprattutto in casa Roma quest'anno sia mancato equilibrio, perché si è passati comunque dal Daglia al Garcia all'incensare poi Garcia nel momento in cui intorno a ottobre le cose avevano iniziato a marciare per il verso giusto, per poi far riprecipitare tutto nuovamente, diciamo, da Barcellona in poi. Ecco, non è che forse anche questa umoralità, questa difficoltà nel gestire con equilibrio sia i momenti buoni che i momenti più deludenti non sia anche in qualche modo alla base poi della disillusione in un anno che era probabilmente percepito come l'anno buono visto anche la flessione iniziale della Juve? Ma allora si pensava assolutamente che questo per quanto riguarda la Roma potesse essere l'anno buono, la squadra sembrava discreta anche se all'inizio dell'anno tutti avevamo detto ma perché un portiere in prestito? Perché mancano i terzini, però si puntava per esempio c'era quasi una certezza, Castan sarebbe, no? Avrebbe recuperato. E qui invece a quanto pare qualcuno ha toppato, perché invece Castan... Sì, credo non Garcia però, io ricordo Garcia che oggi ovviamente paga il conto di tutto, a livello di critica lo ricordo spiegare che servivano due centrali poco prima che arrivasse Gyomber da Catania. Che poi non sappiamo bene che cosa sia, no? Sì, non è certamente il vice Castan. No, è stato utilizzato anche come terzino, visto, eccetera. Ma Garcia, in tutto questo non c'entra niente, però questi alti e bassi, questa mancanza di equilibrio nei confronti di Garcia dipende dai risultati che via via ci sono stati. Perché Garcia, presso l'opinione pubblica, presso i tifosi, aveva già fatto il suo tempo l'anno scorso. È rimasto, come tutti sanno, commissariato da parte della società, eccetera, eccetera. Ha sempre avuto meno potere. E tutto questo, di tutto questo hanno risentito i risultati, però che alcune volte sono stati buoni, altre volte ci sono stati risultati qui a Roma di quelli terribili, sì. La goleada del Barcellona, ma credo più ancora lo 0-0 col Bate Borisov, che è stata l'immagine di una squadra in totale resa, un'eliminazione con la Spezia dalla Coppa Italia. Ti chiedo cosa ne pensi, se ti convince insomma l'ultimo Garcia, quello che abbiamo letto per il momento sui giornali, muscolare, doppie sedute, decide tutto lui, lo stadio staff di Pallotta per il momento messo da parte, almeno a livello operativo, di decisioni prese, credo sia un po' l'ultimo tentativo. Ma sì, però io non è che ci creda molto, perché lui in realtà cosa ha detto? Facciamo doppio allenamento, come sempre si fa dopo le vacanze, no? Quando c'è il periodo dei richiami fisici, e quindi si fa il doppio allenamento. In realtà gli rimane il preparatore messo da Pallotta, il medico messo da Pallotta, eccetera, e lui si guarda intorno e si trova isolato. È in una situazione difficilissima Garcia, ma si è salvato perché al momento manca il sostituto. Sì. Perché se tu prendi Spalletti lo devi prendere per 3 anni. Perché come Van Gaal è il miglior traghettatore di se stesso. Bravo, è così, e se riesce a reggere fino a giugno, poi chissà se sarà Conte l'uomo forte che serve a questa Roma. Ma sai, Conte viene qui se la Roma non è in Coppa dei Campioni, Champions League, non lo so, eh. Io tanto spero che rimanga in nazionale, perché per me la squadra più importante d'Italia è la nazionale, e siccome Conte è il miglior allenatore io lo vorrei sempre in nazionale. Però la Roma certo deve prendere adesso un allenatore su quale puntare per 3 anni, il classico ciclo. Sì, riaprire un nuovo ciclo. Grazie Roberto. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie Roberto Renga. Andiamo in Spagna. Hai una campagna contra Florentino, contra el Real Madrid, contra el entrenador del Real Madrid, y a partir de ahí todo lo que puede ser criticable se critica, y lo que no, pues se maneja, se inventa, se manipula, y bueno, eso se ve, es evidente, y cualquiera que tenga experiencia lo aprecia. Todos tenemos que ser conscientes de que tenemos que poner un poquito más de nuestra parte, empezando por mí, y a partir de ahí vendrán más éxitos y las cuentas y la valoración se hace al final. Questo invece è l'ultimo Benitez, quello che ieri l'hanno contato i giornalisti spagnoli, ha pronunciato 6 volte le parole campagna contro se stesso e contro Perez e manipulación di notizie, di giudizi. Ma niente, da un certo punto di vista niente di nuovo, nel senso che comunque allenatori del profilo di Benitez secondo me sono destinati comunque a essere criticati a Real Madrid, come è successo anche in passato, insomma, di allenatori immuni da critiche, sì, soprattutto se perdono il classico, esatto, in casa per 4-0 non basta neanche vincere 10-2. Io penso che alla fine comunque lo schema fosse già delineato a inizio stagione, cioè Zidane promesso sposo del Real Madrid presto o tardi, e Benitez che probabilmente prenderà il posto di Del Bosque alla nazionale spagnola in un futuro, probabilmente anche un futuro molto prossimo. Sì, se non si rovinerà definitivamente la reputazione con questa stagione un po' sballata del Real Madrid. Comunque Real che gioca tra 40 minuti contro la Real Sociedad, poi c'è l'Atletico Madrid, poi c'è il Barcellona questa sera alle 20:30, perché loro in Spagna giocano. 800 24 00 24, Simone da Pisa. Sì, buonasera. Eccoci. Salve, complimenti per la trasmissione. Grazie. Fate sempre compagnia. Ecco, io volevo fare un intervento per quanto riguarda il campionato. Il dubbio che la Juve abbia la possibilità di vincere. Sì. Io credo che non ce ne siano dubbi fino a che la squadra più titolata d'Italia ha uno stadio di proprietà, mentre gli altri non lo hanno. Quindi vedo che non c'è minimamente gara. Sì, si vince lo scudetto anche senza stadio di proprietà, eh. Cioè, è un vantaggio in prospettiva, però credo che è un vantaggio sotto il punto di vista dei punti e sotto quello economico. Quindi fino a che non siamo tutti al pari, io sono un tifoso dell'Inter e saluto tutti gli interisti. Amala. Sì, però credo sia anche un aspetto, non è un problema della Juve, strategico, se la Juve ce l'ha e gli altri no. È evidente che lo stadio di proprietà non ti fa più gol di quello in affitto, però è probabilmente quello che intendeva l'ascoltatore, è che c'è una visione di strategia d'insieme diversa, no? Che può essere anche in piccolo quella del Sassuolo o quella dell'Udinese, no? Non a caso tre società sane. Sì, però io prendo la Champions League, se tu leggi l'albo d'oro degli ultimi 10 anni non la vince sempre il più ricco. Anzi, per fortuna, anzi, nella metà dei casi, andatevi a fare le statistiche, in finale o la vittoria è arrivata qualcuno che stava dal quinto o sesto posto di questa classifica dei fatturati in giù, quindi evidentemente c'è spazio poi anche per gli altri, altrimenti l'avrebbe vinta sempre Barcellona, sempre Real Madrid, che ne ha vinta una. Ma meno male, perché dopo sennò anni di attesa faremo altro anche noi, insomma. Gigi dalla provincia di Milano. Gigi. Oh, vi ringrazio, grazie per la convocazione. Grazie a te. Finalmente. Oh, almeno ho modo di parlare di calcio serio. Sì. Ascoltate, ho sentito prima che ha chiamato Monzon, Novellino, sì, e aveva detto in modo molto riduttivo, è una battuta. Parlando di Ancelotti, ha detto che Ancelotti era il miglior allenatore secondo lui perché era diretto con i giocatori, per il carattere, insomma. Io invece volevo dire che Ancelotti in assoluto è il miglior allenatore, e le spiego anche le ragioni, volevo chiedere il vostro parere. È l'unico allenatore che è riuscito a far giocare 5 giocatori portati all'attacco più 2 terzini che erano tutto tranne che nei terzini, Cafu e Sergiño, centrocampo basato, fatto da Pirlo, Fedor, Kakà, Sheva e Crespo. Sì, aveva anche quindi, Gattuso, e dietro aveva una difesa di un certo Gattuso, tipo. Unico incontrista, Gattuso, e Nesta e Maldini come centrali. I 2 terzini, Cafu e Sergiño, che erano tutti tranne che dei terzini marcatori, tra virgolette. No, erano delle ali. Oh, bravo. Quindi in assoluto per me il miglior allenatore era lui, perché riusciva a far giocare in pratica con un unico incontrista una squadra di quel calibro. Sì, ma poi anche quello che ha reinventato Pirlo, a mille meriti Carlo Ancelotti, però giocare con Gattuso, Nesta, Maldini e Thiago Silva, perché ha avuto anche Thiago Silva al Milan, non è da tutti, come non è da tutti fare quello che ha fatto ieri Nerofer. Certo, avrei sognato di vederlo più pulito, attaccato tanto ancora una volta, che peccato, il palo! No, questa è sfortuna, no, fermati che può essere pericoloso, se si pianta il palo gli finisce la pancia, fermati Inner, è pericolosissima questa cosa, fermati, sfortuna nera, però è pericolosa questa cosa, se il palo gli va davanti e si conficca nella neve, non oso pensare, no, questa non l'ho mai vista questa cosa qua. È la Coppa del Mondo, quindi è giusto che sono piste difficili. Vogliamo essere i migliori al mondo, quindi dobbiamo anche affrontare le piste più ripide, più veloci e più difficili. Come sono piste che sono troppo facili per la Coppa del Mondo, sono anche piste che sono più difficili della media. Questa è più difficile della media, ma una come le Cluj è molto più facile della media. Lì gareggiano anche le donne, quindi... va bene così, va benissimo così. Cioè, andrebbe meglio senza un palo conficcato nella pettorina. Cristian Ghedina, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, vedo. Ieri era abbastanza difficile anche senza il numero di Nerofer. Allora, De Cesaris è uno slalomista, ha detto che non ha mai visto qualcosa del genere. Tu? A dire la verità, anche io non ho mai visto una cosa del genere. Mi è capitato anche a me una volta in Val d'Isère nella compressione. Di saltare, di prendere la direzione male nel salto, e sono atterrato proprio in mezzo alla porta, però fortunatamente si è strappato il telo ed è andato via subito, l'ho perso, quindi l'ho perso subito, non è rimasto agganciato come ieri a Nerofer. Ma ti sorprende che sia andato giù fino in fondo? No, non mi sorprende, perché poi dopo alla fine gli atleti, insomma, hanno il desiderio di arrivare in fondo, di fare la propria gara, anche se sanno magari di aver fatto un errore o di aver compromesso magari la gara, però la voglia, l'adrenalina che c'è in corpo per arrivare in fondo, per portare a termine la gara, è tantissima, e avrei fatto anche io la stessa cosa. Sì, anche se c'era una componente di rischio, perché se quel palo lì fosse girato davanti, insomma, non era come semplicemente avere la mascherina storta. In effetti sì, il problema era proprio quella, una pericolosità che il palo magari con un'ondulazione, rallentando un po' la velocità o un movimento un po' strano, si girasse contro, si impiantasse davanti a Nerofer, a Christophe, e lì rischi veramente di infiltrarti. Però la velocità in quel punto è abbastanza elevata, il palo è sempre rimasto, anche se è sventolato un po' a destra e a sinistra, non ha mai passato, oltrepassato il suo corpo, diciamo, anche con un mezzo giro, però poteva capitare. Ma uno si rende conto, cioè, anche a te quando sono capitate, oggi abbiamo visto sui giornali, insomma, anche la galleria fotografica di alcuni numeri anche di tuoi durante la tua carriera, tu ti rendi conto quando sei lì a 150 all'ora? Ma sì, ti rendi conto, tante volte ti puoi immaginare, cioè ti rendi conto, sì, capisci di aver fatto, che c'è stato qualche cosa, un problema, perché te ne rendi conto sicuramente, però magari te ne rendi conto dopo guardando al video del pericolo che è scappato. E tante volte magari invece fai delle cose che forse sembrano, no, non tante volte, qualche volta succede che fai un errore che sembra più estremo, invece magari guardando il video poi non era niente di che. Perché anche voi fate la moviola. Grazie Ghedo. Sì, grazie mille a voi allora. Grazie a Cristian Ghedina, grazie, buon anno. Buon anno, lo scivo avanti ovviamente anche in tutto questo periodo. Noi ci fermiamo qui, domani siamo in diretta normalmente dopo il GR delle 14. Ringrazio Federico Casotti, ciao Federico. Ciao a tutti voi, buon anno, buon inizio 2016. Ringrazio Giovanni Melchiori in redazione, Pietro Lacorte in regia. Domani dopo il GR delle 14. Io vi amo e so che dovete scrivere qualcosa. Scrivete una cosa sugli Appennini. Veramente? Mettete Ferrero sull'Appennini, eh? Dai!